No, lui dice che io rimpiango un'età dell'oro, tu dici che io rimpiango l'Italietta, tutti dicono che rimpiango qualcosa. Facendo di questo rimpianto, fra l'altro, un valore negativo e quindi un facile bersaglio. Ma quello che io rimpiango, se si può parlare di rimpianto, mi sembra di averlo detto chiaramente. Seppure in versi, ora che degli altri facciano finta di non capire è naturale, mi meraviglio che non voglia capire tu, che non hai motivi per farlo. Io rimpiangere l'Italietta. Allora tu non hai letto un solo verso delle Ceneri di Gramsci o di Calderon, non hai letto una sola riga dei miei romanzi, non hai visto una sola inquadratura dei miei film, non sai niente di me. Perché tutto ciò che io ho fatto e sono esclude per sua natura che io possa rimpiangere l'Italietta. L'Italietta. L'Italietta è piccolo borghese, è fascista, è democristiana. È provinciale ai margini della storia, la sua cultura è un umanesimo scolastico, formale e volgare, tu vuoi che io rimpianga tutto questo? Ora, per quello che mi riguarda personalmente, questa Italietta è stato un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato, tormentato, perseguitato, linciato per quasi 2 decenni. Ora, questo forse un giovane può non saperlo, ma tu no. Tu no. La tragedia è che non ci sono più esseri umani. Ci sono strane macchine che sbattono una contro l'altra. E noi che siamo gli intellettuali prendiamo l'orario ferroviario dell'anno scorso, di 10 anni prima, e poi diciamo, ma che strano, ma quei 2 treni non passano di lì. Ma come mai sono andati a fracassarsi in quel modo? E qui o il macchinista è impazzito, o è un criminale isolato, oppure c'è un complotto. Ecco, soprattutto il complotto ci fa delirare, perché ci libera da tutto il peso di confrontarci da soli con la verità. Che bello, se mentre noi siamo qui a parlare c'è qualcuno in cantina che sta facendo i piani per farci fuori. È bello, è semplice, è la resistenza. Noi perdiamo alcuni compagni, poi ci riorganizziamo, facciamo fuori un po' di loro, un po' per uno. E lo so che quando trasmettono in televisione Parigi brucia, siete ancora tutti lì con le lacrime agli occhi, una voglia matta che la storia si ripeta. Bella, pulita, semplice. Io di qua, tu di là. Ma vedi, nel mondo che molti di noi sognavano, c'era il padrone turpe con il cilindro, i dollari che gli colavano dalle tasche, la vedova emancipata che chiedeva giustizia per i suoi pargoli. Il bel mondo di Brecht. Ma io non ho nostalgia di quel mondo. Io ho nostalgia della gente povera e semplice che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone, perché erano esclusi da tutto e nessuno li aveva colonizzati. È l'illimitato mondo contadino, pre-nazionale, pre-industriale, sopravvissuto solo fino a pochi anni fa che io rimpiango. E gli uomini di quell'universo non vivevano un'età dell'oro, vivevano semmai quella che qualcuno ha definito l'età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari. Ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita, tanto per essere estremamente elementari, così concludiamo con questo argomento. Ora, che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino resta comunque a far mio. Questo non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com'è la mia critica. Anzi, tanto più lucidamente, quanto più ne sono distaccato e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. Oh, io lo so bene com'è la vita di un intellettuale, eh? Lo so perché in parte è anche la mia vita. Com'è letture, solitudini al laboratorio, cerchi in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io come il dottor Jekyll ho un'altra vita. Perché la mia vita sociale borghese si esaurisce nel lavoro, ma la mia vita sociale in genere dipende completamente da ciò che è la gente. E dico gente intendendo ciò che è la società, il popolo, la massa, nel momento in cui viene esistenzialmente, magari solo visivamente, a contatto con me. Ed è questa esperienza esistenziale concreta, drammatica, diretta, corporea, che nascono poi in conclusione tutti i miei discorsi ideologici. Ecco, con questa vita io pago un prezzo. È come uno che scende all'inferno. quando torno, se torno, se torno, ho visto altre cose, più cose di voi. Io non dico che dovete credermi, però perché cambiate sempre argomento per non affrontare la verità? Allora voglio dirvelo fuori dai denti. Io scendo all'inferno e vedo cose che per ora non disturbano la vostra pace, ma state attenti, perché l'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse, però è anche vero che la sua voglia, il suo desiderio di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale. E non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato la vita violenta. Non vi illudete. E voi siete con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo, basato solo sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere. Beati voi che siete tutti contenti quando potete mettere su un delitto la vostra bella etichetta. A me questa sembra un'altra delle tante operazioni della cultura di massa. Non potendo impedire che accadano certe cose, si trova pace fabbricando scaffali. Ecco, in quanto trasformazione, per ora degradazione antropologica della gente, per me il consumismo è una tragedia che si manifesta in me come delusione, rabbia, tedium vitae, accidia e infine come rivolta idealistica, come rifiuto dello status quo. Ecco, lui stesso mi accusa di idealismo e questa è una cosa che io accetto. Questa l'accetto perché è vera. Tu non sai quanto io ho sempre invidiato la tua mancanza di cattivo idealismo. Tu scherzi sul fatto che da qualche tempo la mia bestia nera sarebbe il consumismo. Però perdona, a me questo tuo scherzare mi sembra un po' qualunquistico, un po' riduttivo. Lo so bene, tu sei pragmaticamente per accettare lo status quo. Però io che sono idealistico no. Il consumismo c'è. Che ci vogliamo fare? Sembri volermi dire. E allora lascia che ti risponda. Lascia che ti risponda. Tra il 1961 e il 1975 qualcosa di essenziale è cambiato. Si è avuto un genocidio. Si è distrutta culturalmente una popolazione. E si tratta precisamente di uno di quei genocidi culturali che hanno preceduto i genocidi fisici di Hitler. Se io avessi fatto un lungo viaggio e fossi tornato dopo qualche tempo, andando in giro per la grandiosa metropoli plebea, io avrei avuto l'impressione che tutti i suoi abitanti fossero stati deportati e sterminati, sostituiti proprio, nelle strade, nei lotti, da slavati, feroci, infelici fantasmi. Se io oggi volessi rigirare a cattone, non lo potrei più fare, perché non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo, nemmeno lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in accattone. Non troverei più un solo giovane che sapesse dire con quella voce quelle battute, perché non soltanto questo non avrebbe lo spirito e la mentalità per dirle, ma non le capirebbe nemmeno. Una nuova forma di potere economico ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza, e i giovani che sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza stanno pagando questa falsità nel modo più atroce. Eccoli qui, in mezzo a noi, con un'ironia imbecille negli occhi, un'aria stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico, quando non un dolore e un'apprensività quasi da educande con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di tolleranza. Non lo so, non vedo come un amico possa scherzare sopra tutto questo. Io non voglio fare profezie, però non posso nascondere di essere disperatamente pessimista. Chi ha manipolato e radicalmente, antropologicamente mutato le grandi masse contadine e operaie è un nuovo potere che adesso a me mi è difficile definire, ma di cui sono certo che è il più violento e totalitario che ci sia mai stato. Perché cambia la natura della gente, perché entra nel più profondo delle coscienze. E se adesso io dico potere con la P maiuscola, è solo perché sinceramente non lo so in che cosa consista questo nuovo potere o chi lo rappresenti, so semplicemente che c'è. sacra, non lo riconosco più né nei potenti democristiani, né nel Vaticano, né nelle forze armate, non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché questa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. Però conosco, questo sì, perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto. Ad esempio il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione coronata da successo di trasformare contadini e sottoproletari in piccolo borghesi, ma soprattutto la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo sviluppo, produrre e consumare, produrre e consumare. Ecco, l'identikit di questo volto ancora bianco del nuovo potere gli attribuisce anche dei tratti vagamente moderni, dovuti alla tolleranza e a un edonismo perfettamente autosufficiente, ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi. La tolleranza infatti è falsa, perché in realtà mai nessun uomo ha dovuto essere tanto comune e conformista come il consumatore, e quanto all'edonismo esso nasconde evidentemente una necessità a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto. Ecco, questo nuovo potere, non ancora rappresentato da nessuno, è dovuto, diciamo così, a una mutazione della classe dominante, è, se proprio vogliamo conservare le vecchie terminologie, una forma totale di fascismo. E questo nuovo fascismo ha anche omologato culturalmente l'Italia. E si tratta di un'omologazione repressiva, pure se ottenuta attraverso l'edonismo e la joie de vivre. Io credo, ma lo credo profondamente, che il vero fascismo sia quello che i sociologi hanno troppo bonariamente definito la società dei consumi. Una definizione che sembra innocua, no? Puramente indicativa. Invece no. Se uno osserva bene la realtà, ma soprattutto se uno sa leggere intorno, negli oggetti, nel paesaggio, nell'urbanistica, ma soprattutto negli uomini, vede che i risultati di questa spensierata società dei consumi sono i risultati di una vera e propria dittatura, di un vero e proprio fascismo. Durante il ventennio noi abbiamo visto dei giovani inquadrati, in divisa, con una differenza però. Allora i giovani, nel momento stesso in cui si toglievano quella divisa e riprendevano la strada verso i loro paesi e i loro campi, ritornavano i giovani di 50, di 100 anni addietro. Perché il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi, forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell'anima. Questo nuovo fascismo, invece, questa società dei consumi, ha profondamente trasformato i giovani. Ha dato loro altri sentimenti, altri modi di vivere, di pensare, altri modelli culturali. Non si tratta più come all'epoca mussoliniana di una irregimentazione scenografica e superficiale, ma di una irregimentazione reale che ha rubato e cambiato la loro anima. Il che significa in definitiva che questa società dei consumi è una civiltà dittatoriale. La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme. Non certo in quanto mezzo tecnico, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto il luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che non si saprebbe altrimenti dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in realtà lo spirito del nuovo potere. E se a livello della volontà e della consapevolezza la televisione in tutti questi anni è stata al servizio della Democrazia Cristiana e del Vaticano, a livello involontario e inconsapevole, essa è stata al servizio di un nuovo potere che non coincide più ideologicamente con la Democrazia Cristiana e del Vaticano non sa più che farsene. Mai un modello di vita ha potuto essere propagandato con tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo o di donna che conta, che è moderno, che è da imitare, da realizzare, non è descritto o decantato, è rappresentato. Il linguaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento. Ora, la proposizione prima di questo linguaggio fisico-mimico è la seguente. Il potere ha deciso che noi siamo tutti uguali. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L'uguaglianza infatti non è stata conquistata, ma è una falsa uguaglianza ricevuta in regalo. Allora non c'è dubbio che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista o le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere come con dolore un aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, lo voglio ripetere, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Questo nuovo fascismo, invece, attraverso i propri mezzi di comunicazione e di informazione, specie appunto la televisione, non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, bruttata per sempre. Ecco perché i potenti che si muovono dentro al palazzo e anche coloro che li descrivono, stando anch'essi logicamente dentro al palazzo, per poterlo fare si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari. Perché ciò che faceva la loro potenza, ossia un certo modo di essere del popolo italiano, non c'è più. Il loro vivere è dunque un sussultare burattinesco. La colpevolezza di almeno una dozzina dei potenti democristiani da trascinare sul banco degli imputati in un regolare processo penale per una lunga serie di reati commessi non consiste nella loro immoralità, che c'è. Ma consiste in un errore di interpretazione politico nel giudicare se stessi e il nuovo potere di cui si erano messi al servizio. Errore di interpretazione politico che ha avuto conseguenze disastrose sulla vita del nostro paese. Allora, quello che il processo che io invoco renderebbe chiaro, folgorante e definitivo è che il contesto in cui governare non è più quello clerico-fascista e che proprio nel non aver capito questo sta il vero reato politico dei democristiani. Ciò che il processo che io invoco renderebbe chiaro, folgorante e definitivo è che amministrare e governare bene non significa più amministrare e governare bene in relazione al vecchio potere, ma in relazione al nuovo potere. Ma se è vero che i potenti democristiani sono stati lasciati indietro dalla realtà con indosso, come una ridicola maschera, il loro potere clerico-fascista, anche gli uomini all'opposizione sono stati lasciati un po' indietro dalla realtà con indosso, come una ridicola maschera, il loro progressismo e la loro tolleranza. Ecco, ad esempio, uno dei luoghi comuni tipici degli intellettuali di sinistra è la loro volontà di sconsacrare, e inventiamoci la parola, di desentimentalizzare la vita. Ora, questo si spiega nei vecchi intellettuali progressisti con il fatto che sono stati educati in una società che imponeva loro false sacralità e falsi sentimenti, e quindi era una reazione giusta. Ma oggi questo nuovo potere non impone più questa falsa sacralità e questi falsi sentimenti. Anzi, è lui stesso il primo, ripeto, a volersene liberare. Il nuovo potere consumistico e permissivo si è valso proprio delle nostre conquiste mentali di laici, di illuministi e di razionalisti per costruire la propria falsa impalcatura di falso laicismo, di falso illuminismo e di falsa razionalità. Si è valso proprio delle nostre sconsacrazioni per liberarsi di un passato che con tutte le sue atroci e idiote consacrazioni non gli serve più. In compenso, però, questo nuovo potere ha portato al limite massimo la sua unica possibile sacralità, la sacralità del consumo come rito e naturalmente della merce come feticcio. Il nuovo potere non ha più nessun interesse a mascherare con religioni, ideali o cose del genere ciò che Marx aveva smascherato. Per quello che riguarda la Chiesa, poi, Se molte gravi sono state le sue colpe, la più grave di tutte sarebbe quella di accettare passivamente la propria liquidazione da parte di un potere che se la ride del Vangelo. Allora, in una prospettiva radicale, forse utopistica, forse è il caso di dirlo millenaristica, è chiaro dunque quello che la Chiesa dovrebbe fare per evitare una fine ingloriosa. Essa dovrebbe passare all'opposizione. Dovrebbe passare all'opposizione contro un potere che l'ha così cinicamente abbandonata, progettando senza tanti scrupoli di ridurla a puro folklore. Dovrebbe negare se stessa per riconquistare i fedeli o coloro che hanno un nuovo bisogno di fede e che proprio per quello che essa è l'hanno abbandonata. La Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa ma non autoritaria di tutti coloro che rifiutano il nuovo potere consumistico, che è completamente irreligioso, totalitario e violento. È questo rifiuto che potrebbe simboleggiare la Chiesa ritornando alle origini, cioè all'opposizione e alla rivolta. O fare questo, oppure accettare un potere che non la vuole più, ossia suicidarsi. Ecco, sembra folle, no? Ma il caso dei Jeans Jesus è una spia di tutto questo. Ricordate i Jeans Jesus? Ecco, coloro che hanno prodotto questi jeans e li hanno lanciati sul mercato usando per lo slogan di Prammatica uno dei 10 comandamenti, non avrai altro jeans al di fuori di me, dimostrano probabilmente con una certa mancanza di senso di colpa, cioè con l'incoscienza di chi non si pone più certi problemi, di essere già oltre la soglia entro cui si dispone il nostro modo di vivere, il nostro orizzonte mentale. Cioè, nel cinismo di questo slogan, un'intensità e un'innocenza anche di tipo completamente nuovo, benché probabilmente maturato a lungo in questi ultimi anni. E allora questo slogan non si limita a comunicarne la necessità di un consumo, ma si presenta addirittura, guarda un po', come la nemesi che punisce la Chiesa per il suo patto col diavolo. Nel Vaticano, infatti, all'apparire di questi manifesti si sono levati alti lamenti. Ma questa volta ai lamenti non è seguito nulla. La longa manus è rimasta inesplicabilmente inerte. L'Italia è tutta tappezzata di manifesti rappresentanti sederi con su sopra scritto chi mi ama mi segua, non avrai altro jeans al di fuori di me, e rivestiti per l'appunto di Blue Jeans Jesus. Ora il vecchio potere democristiano si trova dilaniato tra questi due Jesus, la vecchia forma del potere e la nuova forma del potere. Il Gesù del Vaticano ha perso. Ha perso. Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono buoni, innocenti, pii, se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti. Io me ne mostro ne poco son me nai troiades e so commise zoicon se lo sa che io non sto. Io me ne mostro ne poco son me nai troiades Zoicon, se lo sa che io non sto, io me le mostro le papusom me nai troiades, e so commise Zoicon, se lo sa che io non sto, io me le mostro le papusom me nai troiades, e so commise Zoicon, se lo sa che io non sto, io me le mostro le papusom me nai troiades, e so commise Zoicon. Io ho qualcosa di generale, di immenso, di oscuro da rimproverare ai figli. I figli che ci circondano, soprattutto i più giovani, gli adolescenti sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non terrorizzante è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti, sono maschere di una qualche iniziazione barbarica, ma squallidamente barbarica. Oppure sono maschere di una qualche integrazione incosciente e diligente che non fa pietà. Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si sono trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori, essi stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto, guardando verso di noi tuttavia uomini come disperati mendicanti, che chiedono qualcosa soltanto con lo sguardo perché non hanno coraggio, né forse capacità per parlare. Nei casi né migliori né peggiori sono milioni. Essi non hanno espressione alcuna, sono l'ambiguità fatta carne. I loro occhi sfuggono, il loro sguardo è perpetuamente altrove. Hanno troppo rispetto o troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Nei casi peggiori sono dei veri e propri criminali. Ma quanti sono questi criminali? In realtà potrebbero esserlo quasi tutti. Non c'è gruppo di ragazzi incontrato per strada che non potrebbe essere un gruppo di criminali. Essi non hanno nessuna luce negli occhi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto. Ma che aiuto? O una coltellata? I loro lineamenti sono lineamenti contraffatti di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi. Essi non hanno più padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno più qual è la distanza tra causa ed effetto. Sono regrediti sotto l'aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliorata condizione di vita a una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio, ossia hanno imparato il degradante italiano medio, dall'altra sono quasi afasici. Non sanno ridere o sorridere, sanno solo ghignare o sghignazzare. Certo, i gruppi di giovani colti, del resto assai più numerosi di un tempo, sono adorabili, perché strazianti. Essi, a causa di circostanze che per le grandi masse sono finora solo negative e atrocemente negative, sono più avanzati, sottili, informati dei gruppi analoghi di 10 o 20 anni fa. Ma che cosa possono farsene della loro finezza e della loro cultura? Io capito col signore, o prassis, però poi tu, io capito col signore, o prassis, tu no. coro greco, dotato di tanta immemore e profonda saggezza, aggiungeva che ciò di cui i figli erano puniti era la colpa dei padri. Ebbene, non esito neanche per un momento ad ammetterlo, ad accettare cioè personalmente tale colpa. Se io condanno i figli a causa di una cessazione di amore verso di essi, e quindi presuppongo l'idea di una loro punizione, non ho il minimo dubbio che tutto ciò accada per colpa mia. In quanto padre, in quanto uno dei padri che si sono resi responsabili prima del fascismo, poi di un regime clerico fascista fintamente democratico, e alla fine hanno accettato la nuova forma del potere, il potere dei consumi, ultima delle rovine, rovina delle rovine. Ecco, ora voi dite che a un padre, in un simile frangente, non resta altro che cercare di capire il figlio. Non fare tragedie, non ammazzarsi, non ammazzarlo, ma cercare di capirlo. E dopo che l'ha capito, mi chiedo io, dopo che ha compiuto questo magnifico atto di liberismo morale, allora ammettiamo che questo padre, dopo essersi messo nello stato d'animo di un entomologo che studia il suo insetto, riesca alla fine a capire il figlio. E trovi che questo è un imbecille, un incerto, un aggressivo, un vanitoso, un presuntuoso, un criminaloide, oppure anche un sensibile disperato. Che cosa dovrebbe fare? Accontentarsi di averlo capito? Eh no, accontentarsi di capire implica imparzialità e quindi indifferenza. È l'agire che qualifica. E un padre che ama agisce. Egli è destinato a restare morto sulla polvere come il negletto laio. Non esiste altra possibilità. Il capire è il meno. E l'agire non può consistere in altro che nell'aggredire il figlio per poter restare appunto alla fine morto sulla polvere. La tua è una vera sete di morte, una tanatofilia ben accertabile clinicamente, a cui sarà da mettere in relazione un'altra mania, quella di vedere tutto in termini di rapporto tra madre e figlio, tra padre e figlio. Tu non concepisci altro al di fuori di questo ricambio di ruoli tra genitori e figli, nell'elargire i benefici dell'autorità. È una continua identificazione con tuo padre e con tua madre. Non puoi che trattarci dunque che come tuoi figlioli, intenerendoti in qualità di madre e rimproverandoci in qualità di padre. Da ciò proviene il fatto che ti consideri indispensabile. Tua madre ti avrà abituato a questo, dato che certamente eri un bambino modello eternamente premiato. È un caso di narcisismo fin troppo chiaro. Chissà di cosa vuol punirsi questo prete con la sua sete di morte. Io sono un predi e un om liber. Do scusi, sparno vivi. Io sono un prete e un uomo libero. Due scuse per non vivere. Io sono un predi e un om liber. Do scusi sparno essine vece un ezzovi. Io sono un prete e un uomo libero. Due scuse per non essere né vecchio né giovane. Io sono un predi e un om liber. Par zuiaculi quardis dal mondo. Io sono un prete e un uomo libero. Per giocare con le corde del mondo. Io sono nero d'amore, né santo né diavolo. Io sono un predi e un om. Io sono come un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno. impiccato da ragazzi a un fico, ma ancora con almeno 6 delle sue 7 vite, come un serpe ridotto a poltiglia, un'anguilla mezza mangiata, le guance cave sotto gli occhi abbattuti, i capelli orrendamente diradati sul cranio, le braccia smagrite come quelle di un bambino, un gatto che non crepa. Belmondo, che al volante della sua Alfa Romeo, nella logica del montaggio narcisistico, si stacca dal tempo e vi inserisce se stesso in immagini che nulla hanno a che fare con la noia delle ore in fila col lento risplendere a morte del pomeriggio. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. Dunque, i giovani e i ragazzi del sottoproletariato romano, se ora sono immondizia umana, vuol dire che anche allora potenzialmente lo erano. Erano cioè degli imbecilli costretti a essere adorabili, degli squallidi criminali costretti a essere dei simpatici malandrini, dei vili netti costretti a essere santamente innocenti. Ma allora io mi sono inghianato zuianta al pilgrin che arriva come un spirito a un mon contadin, ma allora mi sono ingannato giocando al pellegrino che arriva come uno spirito in un mondo contadino, ma era un zouk tal zouk che adesso che duci doia son finista al folk di studata la storia, ma era un gioco nel gioco e adesso che tutti e due sono finiti nel fuoco spento della storia, i maledis la storia, io maledico la storia, che non è in me chi non la vuoi, che non è in me che non la voglio. I posdomma disica dal mal dai rischi, non hai mai al mondo si guaris. Posso soltanto dire che dal male dei ricci, che non ho mai avuto, al mondo non si può guarire. E infatti in quei 2 anni il ricceto si era fatto un fio della mignotta completo. Se proprio non era come quel ragazzino compagno suo che un giorno che stavano al delle terrazze assieme venne uno e gli disse: cosu, corri a casa che tua madre non si muove più. E quando il giorno dopo Ricetto gli chiese: come sta tua madre? Quello fece un sorrisetto e disse: è morta. Che fece Ricetto? È morta. Rispose quello divertito per la sorpresa del Ricetto: beh, se non era proprio come quello, era una mezza specie. All'età sua aveva conosciuto già tante centinaia di persone d'ogni razza e d'ogni specie, che oramai uno o l'altro per lui era uguale. E quasi quasi avrebbe potuto comportarsi pure lui come quel tale che abitava vicino alla rotonda e che un giorno con un amico suo aveva pestato un frocio per un baio in par di 1000 lire. E quando il compagno suo gli disse: oh, che aveva ammazzato? Quello senza manco voltarsi rispose: e che me frega! E zacche! Bona fatto, via via subito, bona, che in 2 minuti siamo a termini, bona, che ci risiamo in 2 minuti, con sta pantera mappa proprio un fulmine, starfetta cazzarola, pista, pista, pista! Morte, mortammo, me ce mancano, per farla più completa, gli cicristi, che stanno a permona appennicati a quest'ora di notte, sti dugan, che riafrocioni! Ve annata! Ride il pecora, facendo un par di fiche al finestrino col braccio tutto teso. Ampappolati! Ve annata bene, bene questa volta! Ma andate a pregar santo se vi portino ancora le ginocchia, beduini! Ride il pecora. Bianchi su dal fosso riemergono i ciclisti, sembran vermi. Piange il pecora e accelera. Io posso, ma va che mi doveva. Ops! Scratch, pericolo, segnale di pericolo in un vicolo. Per lavori del can non visti prima, si vanno ad infilare le 3 corsie. Di colpo adesso inoltre pur di schianto, gli è parso di vedere, oh, mamma mia che impressione! Pararsi a 2 centimetri, 3, non di più, là là, proprio davanti al muso dell'alfetta azzurro e lucido. Una cosa veramente molto trucida. Una specie di cadavere lunghissimo, come una corda tesa d'improvviso per far fermare le macchine tra secola. Ma non perde il controllo, hanno deciso. Fa una sterzata che gli si rimescola. La spaghettata ancora è sgamatissimo. Ritorna in carreggiata, quasi gli escono l'occhi fuori di testa. Treme, smuccola, trema. Ma poi tostissimo riscatta, facendo rintronar Casal Bernocchi. Ancora prima di passare a Cilia. Niente, non era niente, solo un gatto. A te se per un gatto una quisquilia. Va te. Già sei calmato? Ancora prima d'essere agitato. Va te! Pensa, però così nevrotico sentito mai non s'era. Pure pensa prima de sta stronzate. Mentre imprime nuovi impulsi al pedale. Pure ancora gli prende il mammatrone e torna intenso a piangere. Pregnoni! Urla cianotico così tanto per dirlo al mondo infame. Ma alzando gli occhi al cielo a un certo Damocle gli viene da pensare. Sulla cima dei pini ha visto luce, luce livida, magra, allaccata, ha visto però vivida, pronta ad essere tra poco, di già arrivoli dai pini verso il basso, giù, giù, scivola, e merda, gli dà un brivido, che non gli piace proprio, pare il brivido della gommare secca, serpegalli da striscia luce. Vabbè che dal motore una voce amica senza fa una piega continua a ribadire, che te frega, ma il fatto è che tra poco un sole pallido di città levantina, come afferma invece per converso in nenia di incubo, morta, un'ignota voce, un sole fermo, potrebbe pure darsi che magnifichi là tra i rottami il fango e le macerie e la zella più immonda, oltre a un'arancia abbandonata sulla sozza arena, oltre a uno straccio rosso, anche le ceneri de sto Gramsci del cazzo, de sto Gramsci che proprio a me mortacci, ah, zompa, premere più l'acceleratore a un tratto drastico come Nerone er pecora, de niente, se vola ricorda, è indifferente, casarza del corsare un verità, tutta la ciancicata de casarza la piena de muretti, che gli basta sorride se canta pesse contenti, e se doveva pure una fregnaccia sparata al punto giusto del discorso per andare a parà per un perghiaccio, ma pa' che fantasia, una bella forza ci aveva la bramuccio sta casarza, chissà se per davvero poi c'è sta da qualche parte, certo non è via che da sta propriamente dalle parti di via Friuli o via del Tagliamento, come insisteva di me di sicuro, quelle sono zone tipo dataria, sono tutte zone dei quartieri alti, zone che te controlla la questura. Gli viene da pensare adesso al pecora. E gli viene da pensarlo prima che gli venga in mente click! The Great Pretender, ovvero sia la musica dei jazz, che gli ha suonato dunque di già quella. Era un fiore de botta nel cervello, manco bastasse. Strange in the Night ha fatto poi sentì nonché bye bye, nonché de fila dopo l'usignolo e zoccoletti. Roba de antenati, roba de paraculi, stracciaroli, burrino mica poco, sto fanatico, burrino mica poco, rock and roll! Rock de rock e rock al ritmo il pecora si sforza or di reagire mentre accelera. Rock de rock e rock e scrivi là. Rock de rock e rock e rock e rock. Billo billo billo blu di Maya. Ma baby scrivi rock e rock e rock. Rock e rock e rock. Ah, non si può. Gli si squaglia la testa dentro il cranio, gli scoppiano gran casse, cosa? Smaniano, cosa? Che si credono? Si farlocchi, cazzari e carigoni che zagaian sfondoni e me fan prediche. Che sanna stimpanamme ste fardone, tudere e sganganate. Dai, ancora! E facciano capire una buona volta che vanno di dicendo esecutore. Eseguchi, ma che mi è stata di ma che ve porti? Non datemi la guazza, che significa? Se vuoi sapere, mannaccia, sta manfrina da nampussa, se parlo e decio camme tutti quanti invasati, che mistifico, che sto a mistifica! Che te, cicca! Mannate! Ma non state a provocare a me! Mi spiace, mi potete fare una critica nel caso che ce voglia, ma ste cose non avete da dimmi, mi spiace! Ma vota di che ve sbagliate proprio, insistono, se può morisse e tacino. Ma che sigario, bravo! Che ben groppino, che tramme dei mostri, che... pedina rigottara e ruspante d'un complotto, che trappola per prendere il sorcione nel caso che gli annave con la botta. Fai finire di fare rivoluzione. Tant'è vero che so Piero Bastoso, detto rana, non pecora, né biscia come a tutti voi altri in mala fede, ve pozzi noce cave, piace crede, ve pozzi assicurare che de politica io non ho fatta proprio, che il problema non è stato politico, che il tema del malinteso che amico vostro è stata un'altra cosa, un'altra cosa, una cosa. Arriva il saccio di un meggiostro, non ancora le budelle, altro che trame, che sorci, non me fate dispropositi. Invece de buon sasso sgari infami, sentite che vi dico chiaro e tondo, manco mannava un funno de magna ieri notte da Pancrazio Erbucaniere, gli spaghetti aie oio, ma se sa quando si è disponibili a sto monno, avevo da fa più lo schicchignoso, allora sì che non è mai veduto, cavo da sapere se non ho saputo mai manca affari di mio nonno. Sì, c'aveva una faccia de famoso, la faccia del registro del giornale, vabbè, ma che vuol dire, ma che mortacci, non state mai stordi, non so fumoso, so facce che scordare burse bonno, e inoltre torno a di so periferico, periferico più del anulare, quindi ma che raccordo, che cannari, chi ci stava a pensare, poi va a ripetere il fatto sostantivo, per principale, per me che so cristiano, si è il frescaccio, voleva far soltanto un po' grazioso, non aveva da dirmi cose luride, cose che a me... Madonna, sì, sicuro! E se perché il marpione? La bufala te fa me fare un articolo poetico, me voleva fregare, fregate brutto, mica so a dire che fosse un farabutto, però... Mazza! Se vola sto missile, una favola, l'erode un mese che manco più tocchino d'era a sta velocità... Mi viene quasi da fare bip bip come il coyote, ma sì, bip bip, brum brum, bip bip. Ragazzi, costa bomba di mezzo chi me tiene, altro che smanetta mattina e sera per rende più gagliarde le cariole che mi sono capitate fino adesso, altro che sta trucca gli scappamenti. Bip bip, brum brum, bip bip, mappa che razzo, bip bip, brum brum, bip, scratch, porca ciavacca. Niente, non si sono accorti, non mi placchino. Buona, vrum vrum, perché? Hanno fatto segno? Danà? Gli sbiri? Come se ci avessi il permesso di qualche ministero? Ciurno, buongiorno. Vedi, pure mi salutano stamattina, sti cornuti, si sono messi rispetto sull'attenti con le palette basse lì di legno, stan fermi ancora adesso, maccheroni! Finalmente vi vedo rassegnati, finalmente vi vedo buoni, buoni come avete da esse, e ci ho buttati tutti da lato! Quando passa Piero! Maccheroni! Bip! Ma sento un vena proprio di batte record stamattina, proprio di batte scratch! Ma vedi quelli? Ancora non siamo opera, a battone, a bevane, scansatevi, ci vanno le drobbe del giudizio, li morte, muovemose, bibi, morte del sol, ho capito, gli canto lo stornello, lasciateci passasse, mumarani, lasciateci pa' cosa, buro, andendo, a sezza noi, de moglie rispondo, rima, ti è fatto, io ci voleva, vrum, bibi, mip, ah, non avrò dormito, ma oddati, e mi sento benissimo, non so, ma mi sento un leone stamattina, non fosse che ogni tanto quando freno mi torna a rode l'anima mortacci, fonno mi dispiace poveretto, esse balordo puro anziché no doveva er neno, si c'aveva un socio un torcinato dentro a un pasticciaccio, non mi ricordo se despaccia o froci proprio in via Merulana dove stando Caruba ogni tre passi, ma capace di tutto aveva ad essere bel sozzetto, però si ci ripenso proprio tanto, bip, mi dispiace lo stesso. dannar mare, dar tronne tutto un tratto, a fa del cinema con me che son nervoso, proprio voglia gli doveva venire sto becca morto, inoltre prima de fissarsi a fa sta partita de carcio malandrino e armato de ciriole anna la carica, non mi poteva dire che c'entra avanti, lui giocava de solito e che il portiere io c'avevo da fa, si se sforzava de dammi tempo senza fa l'isterico sforzandomi, ma si due tiri in porta non de rigore anche tira, insomma io avrei fatto, se sa che poi so buono, che sono pasta, che non so testardo, trattando soprattutto dei contanti e non dei sentimenti, sì bastardi, i bagherozzi ciocchi dei parioli, ste scaglie d'arto borda ricercasse vanno a tutte le riguai da soli, e chi ce va a mezzo, ma non voglio, e chi ce va a mezzo, sì ce penso, ma viene da menà, ma da menà davvero, con violenza, con tutta la violenza che si meritano ste mignotte dall'omini veraci, dall'omini veritici. Mi spiace proprio, veramente, mi spiace proprio tanto, sono sincero. Ah, se mi spiace, dai! Piange il pecora, preso dal mammatrone un'altra volta, piange come un vitello, piange, piange, proprio come una pecora sconvolta che senza meta vagoli alla cieca. Ma a chi lo vede a filo del cruscotto pianger così sfogato da bassetto, che si dispera come se cosciente quasi non fosse più d'esser ricciotto, come un bel mazzo di garofanetti, a chi lo vede, specie se non sente, fa l'effetto di un angelo, di un angelo. Davvero piange un pianto miserevole il derelitto pecora, reietto, piange al cruscotto un pianto lagrimevole. Ma piange, piange, piange, brevemente, poi ride come un pazzo, intanto è libero, pensa che intanto è libero, che è vivo, in barba al monno frocio, che ricevere, potrà un barbatti mano per l'alfetta, e prima e soprattutto che impunito sta già bruciando il viale di Trastevere, Roma non fa la stupida, in solluchero gli viene da cantare al sole pallido di città come sopra, mentre schiva, tre martufagni in viaggio illanguidito, gli viene da cantare parimenti Venticello de Roma, e niente, niente gli viene da cantare sul Venticello de Roma che gli stuzzica i capelli, niente. Se pu da caso me venisse, no, domani in casa sbiri o peggio zoccole o amici del defunto, proprio niente gli dica quelli, niente, anche se insistono a interrogarmi tutti per un secolo, che c'ho da dire, portatemi una prova che ho fatto qualche cosa di sbagliato, se mai ci sono passato a Fiumicino non c'ho bisogno manco d'avvocati per dimostrare che è stato un incidente, vorrei far venuta che m'ha sconciato nel fatto una camicia nova nova, una camicia maiuscola de lino, insomma caceroni per piacere nel complesso, a parte che ripeto mi dispiace, ripeto pure stato come nuovo, che te se rompe mano che se sfracica. Oh, per piacere, non mi state adesso a fare tutti la faccia dei schifati. Non mi state a far facce! Mi commuovono pure a me le disgrazie. Ma si sa che bisogna essere forti. E poi qui a Roma, a noi altri ci piace di buttare pure le peggio storie un po' sul comico, e questa non è il peggio, ve lo giuro. Può essere che vi sembri inconcepibile, ma è stata una sgommata involontaria. Quanta cogiura, beh, sì, una cogiura c'è stata, una cogiura straordinaria, ma de rogne per me! Che d'omicidio! Ma venite a parlare, se non c'è logica, non si può di omicidio, e proprio aperto si mostra da di me da fastidio. Garibaldi sfregiando San Sebastiano, che Garibaldi, non mi fate nomi! E non state ma a fare nomi che non c'entra! Ma che vita violenta che se presta a fare infamità per conto d'ersi, che uccelletto istigato dal sistema beccato da uccellaccio andiamo piano piano a rioga sta razza dei teoremi, come ve l'ho da dire una buona volta, che so ragazzo devi e basta un riccio periferico che si è trovato in mezzo a robe storte. Come ve l'ho da dire una buona volta, che so un carofoletto tutto core, o si ve pare meglio un fior de verza, de borgadaro debole de testa, tanto per stare nel campo dei fiori. Ride il pecora e in bocca a tutto gas, tanto per stare allegro via del corso, all'altezza precisa del palazzo, sì del palazzo, quello che si sa, non troppo, chi c'è dentro in modo aperto Si tocca scostumato il basso ventre, poi piange, sopraffatto dal rimorso. Poi, come un grande tanghero felice, torna a ridere ancora, a accelerare, a cantar «Forza Roma! Viva Arduce!» A bociar «A Fregnoni!» Beh, allaccato, ammoppito, stracotto, ormai si sente nel ridere a sto punto, a dire il vero. Ride a metà, a sto punto ormai stremato, non rimugina più, sogna chimerico. Ormai soltanto un caffio bel bollente, ride e si studia i bar, pur comatoso però rinviene quando una bandiera a un tratto vede pendere rossa e mucida da un palo di lampione. Grazie a quella, chissà perché, poi vispo anche il cervello, gli riparte con bippe da coyote, fresco come una rosa e così a rotoli. Torna a pensare, pensa, un po' filosofo, beh, se quello era quello che si dice, se quello veramente era un corsaro, ma adesso si può dire che puro Piero, che io puro insieme a quello, so già un classico, già non si può parlare più di sto tipo senza parlare di me, di Piero Rana, ericcio del destino e del mistero, dato che tutti quanti sti becchini mi sta rendendo grande più de bruto. Mazza, mortacci forte, ma te pare, puro senza voler, puro te spiego, de fatto sono già entrato paro paro nella storia maiuscola, e domani me studieranno a scuola, non pensavo de fa così successo, gente inutile, mi dispiace per quello, ma so bravo, sono l'omici da Massimo del secolo, sono una potenza. Quella ribadita d'altronde continuava a suo proposito come fosse un problema di principio, che se gli stavo bene era perché c'avevo un po' il profilo denedibio, denedibio de soffogo archetipico, che mi voleva di sto professore, che mi voleva di a sti babbuini, gliel'ho dato in mannassi, non me scassino troppo, che non c'ho voglia, se la scusa non pigliano, vedendomi curioso per farmi altre domande, no, perché in merito al disguido di stanotte, da me se ponno solo senti di ritaglie! Er fate queste non ve spotter, fate queste baster musichiere! Mi spiace! Questo nammela su musica toccando oltretutto certi tasti mi voleva dan cambio una patacca! Perché io ho detto tondo non c'è sto! Io ho dato piano! Un paro de caracche! Dopodiché che ho fatto? Sono assortito dalla monnezza senza più curarlo. E mi sono ripulito. Soppe. Basta. Chiuso. Nient'altro. Il fatto è tutto qui. Che? Che d'altro? Ah sì, pure volete che vi dica di dopo. Accodate. Comunque vi rispondo, non rompetemi. Lì sto un po' intorto, ok? Dopo so ito. Non sono stato più a cercarlo, ma vedendo per vostro sor Luterio si era andato a cacciare, mannenia, oh. Tirava una giannetta e così a Callara mi è venuto da sor Gesù dal posto per farmi riportare da sto cavallo di corsa e sedra. Neni non mannava e sta un minuto in più lì a Fiumicino. Che me fregava, sì, chi ci lasciavo, era erdante del giorno, sì, era puro erchinaia orpetracca del futuro, che aveva da fregarmi che me possino, che me fregava, sì, era Petrolini!